Salva Danaio di Deborah Rosciani. Di nuovo in diretta con Salva Danaio, ben ritrovati da Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti. Borse sempre sotto la lente degli investitori piccoli e grandi. L'autunno, che qualcuno prefigurava come potenziale momento per una nuova prorompente discesa dei listini, sta passando invece senza alcuna scossa particolare, pur confrontandosi ogni giorno con dati economici contrastanti che non danno ancora rassicurazioni totali sulla ripresa economica. Ieri, per esempio, c'è stata la revisione del prodotto interno lordo americano del terzo trimestre al 2,8%, la prima lettura dava invece un più 3,5%. E dunque, nonostante questo, il mercato azionario sta viaggiando sui massimi da oltre un anno e sta risalendo complessivamente la china, tentando di colmare quella voragine che si era creata fra l'agosto del 2007 e lo scorso marzo, mese dei minimi assoluti della crisi finanziaria attuale. Vi do un dato che rappresenta l'entità del movimento tellurico che ha sconvolto il nostro sistema finanziario. Tra ottobre 2007 e marzo 2009 i mercati mondiali hanno bruciato qualcosa come 29.000 miliardi di dollari, pari a circa il 50% del prodotto interno lordo mondiale. E allora oggi torniamo ad analizzare la tendenza attuale della borsa, alla luce anche di tutti i fattori che si stanno muovendo intorno e che ne condizionano l'andamento ogni giorno. Stamattina, per esempio, abbiamo il nuovo ennesimo record dell'oro, spinto dal dollaro che scende sempre di più sull'euro. Abbiamo segnali di ottimismo che arrivano da alcune aree emergenti, insomma tanti elementi da analizzare con chi lo faremo questa mattina. Intanto con Ingo Werner, senior portfolio manager di Farad Investment Advisor, è una società lussemburghese indipendente specializzata nell'attività di gestione degli investimenti, di asset management, e quindi abbiamo portato a Salva Danaio un simpatico accento tedesco. Dottor Werner, benvenuto da noi. Buongiorno a tutti. E buongiorno invece in collegamento telefonico con noi questa mattina Sara Silano, caporedattore di Morningstar Italy. Silano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Mi viene anche da ridere chiamarti Sara con il cognome, perché in realtà ci conosciamo da tempo. Sara è una collega e Morningstar, lo ricordo per chi non lo conoscesse, è una società molto importante che elabora analisi finanziarie indipendenti. Forse i risparmiatori italiani la conoscono meglio perché questa società attribuisce dei giudizi anche ai fondi di investimento, e questi giudizi sono mediamente una bussola molto importante per orientarsi nell'industria del risparmio gestito. Morningstar, oltre a tutto questo, elabora anche mensilmente un sondaggio, un monitoraggio fra i principali gestori italiani, e sentiremo l'ultima rilevazione cosa indica a proposito delle prospettive dei mercati. Ovviamente tutte queste chiacchiere noi le faremo, oltre che con i nostri ospiti, anche con voi, se vorrete chiamarci in diretta all'800 24 00 24, o se vorrete scriverci al 349 238 6666. Borsa in termini generali, borsa invece in ambito quotidiano. Cosa sta succedendo oggi? Che dopo i ribassi di ieri, stamattina l'Europa si è svegliata di umore nettamente migliore. In avvio gli indici del vecchio continente hanno registrato un rialzo immediato di quasi un punto percentuale, poi si è un po' ridimensionata questa fiammata di avvio seduta. Adesso abbiamo un più 0,4% a Londra, più 0,53% a Parigi, Francoforte più 0,33%, Londra più 0,30%, ma dicevamo che le tendenze sono molto più spiccate e nette stamattina e sul versante valutario, perché il dollaro continua a scendere su nuovi minimi nei confronti dell'euro, 1,50,39 è adesso il rapporto di cambio, e questo dollaro che continua a scendere ha un contraltare, continua a far salire, a spingere l'oro. Stamattina il metallo giallo ha toccato due record consecutivi, il primo sui mercati asiatici a 1178,60 dollari l'oncia, e poi a Londra si è portato a 1180,20 dollari l'oncia. Di fatto ci si avvicina sempre di più alla soglia dei 1200 dollari. Il motivo che stamattina ha dato questa spinta oltre al dollaro è stata anche la notizia secondo la quale la banca centrale indiana sarebbe pronta ad acquistare altre riserve di oro dal Fondo Monetario Internazionale. Peraltro sarebbe la seconda operazione di questo tipo nel giro di pochissime settimane. Oggi abbiamo tanti dati economici dagli Stati Uniti, poi arriverà la pausa del Thanksgiving, del ringraziamento, per cui cominceranno un po' a ridimensionarsi anche gli scambi sul mercato azionario americano. Rapidamente i migliori titoli a Piazza Affari: Mediaset più 3, Generali più 1,35, Bulgari in rialzo di un punto con l'Automatica ed Eni. Per l'Automatica pare che stia arrivando una maxi emissione obbligazionaria, secondo le indiscrezioni che circolano sul mercato stamattina. mattina. I ribassi più forti: in pregilo meno 1,47, Fiat meno 1,14, Enel in ribasso di un punto con Snam e Rete Gas. La borsa, questa era la borsa di oggi, sentiamo però che cosa sta accadendo nelle ultime settimane tra i mercati azionari. Chi si aspettava una brusca correzione, per il momento è costretto a ricredersi. Nonostante la pausa delle ultime settimane di ottobre, il rally delle borse iniziato lo scorso mese di marzo non si è ancora esaurito e le performance messe a segno dalle principali piazze finanziarie da inizio di novembre ad oggi lo dimostrano. Ad eccezione di Tokyo, che nelle ultime tre settimane ha perso circa il 6%, la marcia è continuata. Rialzi oltre il 6% per New York, seguita in Europa da Francoforte, Londra e Parigi, le migliori del vecchio continente. Tanto che la scorsa settimana sia Wall Street che l'indice paneuropeo DJ Stoxx 600 hanno raggiunto i massimi degli ultimi 13 mesi. Il clima, tuttavia, rimane incerto. Tra gli investitori prevale la prudenza e le prime sedute di questa settimana lo dimostrano. Dopo un esordio positivo sulla scia della debolezza del dollaro e del balzo superiore alle attese delle vendite di case negli Stati Uniti, ieri c'è stato il dietrofronte. A dare il via alle vendite ha contribuito la revisione al ribasso del prodotto interno lordo americano nel terzo trimestre, più 2,8% dopo una prima stima a più 3,5%, e la debolezza del settore bancario, che teme nuove ricapitalizzazioni dopo quelle annunciate in Cina. 800 24 00 24, vi ricordo il numero verde per intervenire, 349 238 6666, invece è il numero per i vostri messaggi. Allora do il benvenuto con la prima domanda al dottor Werner di Farad Investment Advisor. Sui mercati si respira aria di ottimismo, anche se qualche dato economico ogni tanto ci riporta sulla strada della prudenza. C'è molta liquidità in circolazione. Gli altri asset di investimento rispetto alla borsa, come le obbligazioni governative, danno molte poche soddisfazioni. Lei condivide tutto questo ottimismo sul mercato azionario? Ma anche se abbiamo avuto qualche pausa, naturalmente, anche tra settembre ed ottobre, però ancora la tendenza sembra mediamente positiva. Effettivamente, come è stato detto in anticipo, abbiamo oltrepassato queste due mesi abbastanza caldi storicamente, cominciando da metà settembre fino più o meno a metà novembre, dove anche per quest'anno molti investitori che sono rimasti ancora fuori dal mercato, che sono ancora fuori dal mercato, si aspettavano una correzione attorno almeno tra il 10 e il 20% per poi poter cominciare a costruire nuove posizioni. Naturalmente, quando più persone, la maggior parte delle persone a livello mondiale, si aspettano qualcosa, difficilmente questo qualcosa accade. Esattamente. Si è visto a due o tre riprese che le borse in due o tre giorni hanno perso anche abbastanza, in maniera abbastanza forte, ma subito dopo neanche il tempo di andare a vendere completamente, mettiamo qualche posizione che creata con uno stop loss, quindi dove effettivamente non si vuole perdere più del 5-10%, neanche il tempo di realizzare che effettivamente era soltanto un'occasione per rientrare sui mercati, che i mercati dopo subito sono sempre riportati dietro ai nuovi massimi. Ma secondo lei è un mercato che crede di più alla ripresa economica, anche se ancora i dati ci dicono che questa non sia esattamente dietro l'angolo, è proprio tutta la liquidità che in questa maniera viene collocata in una determinata asset di investimento, visto che le alternative non ci sono? Qual è il fattore che spinge di più, secondo lei? Si sente sempre parlare di più è che praticamente le borse sono supportate anche effettivamente da molti fondi provenienti dalla liquidità, che ancora fino magari 6-7 anni fa era una classe di investimento che, anche se rendeva solo il 4-5%, comunque era una classe che si poteva anche lasciare un 15, anche un 20% del portafoglio. E quei rendimenti odierni, praticamente a livello globale, tranne qualche eccezione, dove effettivamente lasciare i soldi sul conto o anche investimenti a lungo termine non fruttano più niente, sembra quasi che da questa classe i soldi devono essere switchati sul mondo azionario. Mm-hmm. Quindi non mi sembra magari ancora una vera convinzione. Mi sembra quasi più un dovere senza convinzione effettivamente di entrare ancora sul mercato azionario. Poi ci sono naturalmente delle aree che stanno spingendo concretamente, perché stanno crescendo molto anche dal punto di vista economico, qualche area emergente, c'è il caso del Brasile che sicuramente in questo momento è molto interessante, magari fra un po' lo analizziamo, dottor Werner. Volevo però andare anche a Sara Silano, perché questa ovviamente è la visione di Farad. Sara Silano con Morningstar magari ci può offrire una visione un po' più complessiva, media, di quello che dicono un po' i gestori in Italia. Cosa rileva l'ultimo osservatorio di Morningstar? I gestori guardano con cauto ottimismo al mercato azionario, attendono però delle conferme dal fronte degli utili aziendali e dell'economia. Diciamo che la fase di confusione, dicono i gestori, è finita, ma si apre quella di incertezza, di ricerca di conferme. Tutte le borse hanno recuperato dai minimi toccati a marzo, però è stato un recupero che è stato dettato da dei fattori cosiddetti meccanici, cioè da degli aiuti esterni, ossia una situazione di bassi tassi di interesse, di forti aiuti governativi, di un'ingente emissione di liquidità nel sistema finanziario da parte delle banche centrali. Ora si parla tanto di exit strategy, cioè di strategia di uscita da questa situazione, e forse sarà proprio questo il banco di prova futura. E i gestori, in attesa di capire quali saranno le scelte delle banche centrali, che in questo momento rivestono un ruolo molto, molto importante nelle scelte che prenderanno i gestori nei prossimi mesi, in attesa di vedere quello che faranno, stanno un po' alla finestra a guardare, prendono i risultati positivi che ci sono stati finora, però non dimenticano che ci sono dei problemi, prima fra tutti ad esempio la disoccupazione e secondo anche l'elevato debito pubblico, che comunque possono creare ancora delle tensioni. Ecco, secondo te, Sara, c'è il timore anche che in qualche maniera queste tendenze che si stanno determinando, una borsa che per esempio dai minimi di marzo, nei casi tra l'altro più contenuti, è cresciuta di almeno il 50%, perché ci sono listini in tutto il mondo che hanno fatto anche più 100%, c'è la borsa di Buenos Aires che ha fatto dal minimo del 9 marzo il più 133%, quindi uno. Due, l'oro che continua a volare, quindi c'è anche un certo movimento nelle materie prime, i tassi di interesse ancora bassissimi, c'è qualche altra bolla in arrivo, temono anche questo i gestori? Il timore sul discorso delle materie prime c'è, dell'oro soprattutto, in particolare secondo uno studio che ha fatto Morningstar negli Stati Uniti, è vero, l'oro è il bene rifugio per eccellenza, quindi è un riparo dalla svalutazione del dollaro, è un riparo se ci sarà in futuro l'inflazione. Tuttavia il rischio più grande, che sottolineano i colleghi americani di Morningstar, è proprio il rischio del prezzo elevato. Cosa potrebbe accadere, dicono, se questa domanda degli emergenti, questa domanda d'oro fosse inferiore all'attesa in futuro. Quindi attenzione, questo problema dell'oro è un problema che viene guardato con particolare attenzione, così come il discorso delle materie prime. Si guarda anche all'Asia Pacifico, i gestori sono ottimisti su quest'area ed è l'area su cui hanno maggiori attese positive secondo l'ultimo sondaggio, però dicono anche attenzione, le valutazioni potrebbero già incorporare le migliori prospettive future, quindi quale margine rimane per un ulteriore apprezzamento. Sicuramente dal punto di vista fondamentale l'area dell'Asia Pacifico è un'area interessante, però c'è anche questo aspetto dei prezzi, delle valutazioni azionarie che non va che va tenuto in considerazione. Benissimo, allora ci fermiamo, abbiamo messo nel nostro calderone tanti spunti dei quali continuare a parlare nella seconda parte di Salvadanaio, vi vedo già pronti anche ad intervenire molti ascoltatori che vorrebbero chiederci tante curiosità a proposito dell'andamento di mercato, vedo anche che c'è chi chiede per esempio delucidazioni a proposito di questa tendenza dell'oro di cui abbiamo appena parlato, non può essere l'oro che spinge il dollaro, dice un ascoltatore, effettivamente il movimento è il contrario, perché è il dollaro così basso che continua a spingere le quotazioni del metallo giallo. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, questa mattina siamo ritornati ad indagare sull'andamento di borsa perché ci sono tante cose interessanti da monitorare, si sta concludendo la stagione delle trimestrali, arriva adesso la stagione che ci darà un po' la misura dei consumi, negli Stati Uniti è sempre un'indicazione molto interessante quella che arriva in questo senso, abbiamo l'oro che continua a toccare nuovi record questa mattina, due consecutivi, prima in Asia e poi a Londra, abbiamo una borsa che tutto sommato in questo autunno in molti pensavano che scendesse prepotentemente dopo i picchi toccati in estate e seguiti appunto a rally di primavera, e invece la borsa non si è fermata, a parte qualche giornata di pausa, in realtà la tendenza continua ad essere positiva, le borse viaggiano ai massimi da oltre un anno. Cosa c'è dietro a tutto questo? Stiamo cercando di capirlo con i nostri ospiti di stamattina, In Governer, Farad Investment Advisor, e Sara Silano, Morningstar Italy. Ecco le vostre domande, cominciando con quella di Gianni da Varese, che saluto. Gianni, buongiorno. Buongiorno signorina. Lei non ci lascia mai, Quando ci sono gli argomenti interessanti. I complimenti per la trasmissione, siete veramente bravissimi. Grazie. Io volevo chiedere un'informazione sui esperti, cioè già avete fatto una trasmissione ad ottobre su questo argomento, no? E io volevo chiedere, con questi prezzi dell'oro, secondo loro è una buona cosa investire un po' di risparmi per il lungo periodo su un ETC, sull'oro fisico, dato che le banche centrali stanno facendo provvista di oro in cambio del dollaro, in funzione della caduta del dollaro, e poi come bene rifugio, e poi in previsione di un arrivo dell'inflazione. Mm-hmm. Grazie mille, buongiorno. Grazie Gianni. Beh, sono tutte osservazioni sicuramente molto intelligenti, però... Dottor Werner, un conto è fare l'investimento, secondo me, nell'oro fisico, comprare le monete, comprare il lingotto. Un conto è utilizzare lo strumento finanziario, come nel caso indicato da Gianni, l'ETC, che è un ETF che replica identicamente appunto il prezzo e le quotazioni del metallo. Lei che visione ha su questo? Ah, praticamente signor Gianni ha già risposto in buona parte anche alla domanda, ha già individuato lo strumento ideale che meglio replica diciamo una continua calcata dell'oro. Ecco, però siccome l'oro adesso è già a prezzi piuttosto elevati, vale la pena prenderlo adesso con questo strumento finanziario? Effettivamente se si vede il movimento dell'oro delle ultime settimane sul corto termine, quindi siamo arrivati al punto per dire effettivamente ha spinto tanto, siamo in una fascia abbastanza sul corto abbastanza alta. Comunque personalmente devo anche dire un discorso come l'oro anche si è mosso praticamente la prima volta dal 2000, fine 2004 fino al 2006, si è visto che ben volentieri quando incomincia a mettere la quinta marcia poi fa strappi forti. Mm-hmm. Anche per diverso tempo, senza dare proprio respiro all'investitore di capire e soprattutto di entrare. Effettivamente sono due possibilità. La possibilità che ha più senso per investire nell'oro non è tanto l'emotivo anche di cercare di fare trading oppure quella prima correzione, mini correzione, cercare di uscire. Effettivamente incominciare a comprare, mettiamo, se ci si mette un budget del 20%, mettiamo del 15% del portafoglio, incominciare col piano d'accumuli, comprare almeno da subito un terzo della posizione, aspettare e mm-hmm. non lasciarsi prendere al panico se esatto. poi succede una piccola correzione. Anche perché certo, voglio dire, basti vedere adesso, chiaramente sono due materie prime che non hanno un andamento, voglio dire, assolutamente, come dire, dipendente, però basti vedere quello che è successo al petrolio. Parlavamo due anni fa, esatto. i $150 al barile, adesso siamo ritornati sui 70-75, per cui anche se la tendenza può essere per un certo periodo molto positiva, poi magari nel giro di un anno e mezzo si ritorna giù prepotentemente, magari ad un certo punto le banche centrali smetteranno anche di fare queste, di accumulare le riserve in oro. Però di fatto Gianni ha ragione, sicuramente nel lungo periodo è un investimento che protegge dell'inflazione generalmente, dottor Werner. Dovrebbe visto che anche l'oro praticamente fino al 2005 è rimasto in letargo, effettivamente dovrebbe. Quello che magari un piccolo qualcosa aggiuntivo che si potrebbe dire, va bene che di solito segue l'andamento inverso del dollaro, comunque la prima volta si è visto una correlazione non più storica negli ultimi 10 giorni, mm-hmm. quando che il dollaro si rafforzava, magari faceva un po' più su e giù di 1,5%, che l'oro invece è uscito anche per un paio di sedute a fare la sua strada indipendentemente mm-hmm. dall'andamento del dollaro. Potrebbe essere anche un discorso in futuro che l'oro potrebbe fare la sua strada senza per forza seguire una caduta, un'eventuale ricaduta più forte del dollaro. Peraltro ha detto una cosa giusta, ovviamente non ci dimentichiamo la relazione con il dollaro, Sara Silano, perché sì, l'oro continua a crescere, magari può rappresentare in questo momento un'attrazione molto forte per molti investitori, ma in ogni caso è un investimento espresso in dollari, pertanto non è detto che poi il rendimento netto sia tale, no? Cioè sia un rendimento interessante, visto che comunque la valuta che scende controbilancia le quotazioni che crescono. Questo sicuramente. Noi abbiamo visto tra i nostri gestori comunque che sul rapporto euro-dollaro sono piuttosto spaccati, perché comunque non è chiaro, ci si attende molta volatilità e comunque una situazione ancora sfavorevole al dollaro. E quindi insomma teniamo sotto controllo questi fattori. Il mercato delle materie prime è molto volatile e molto dipendente da tanti fattori, per cui non lasciamoci attirare e riserviamo, se proprio questo investimento ci interessa, una piccola parte del nostro portafoglio. D'altronde la diversificazione, dottor Werner, è la regola principale di tutti gli investimenti, ma qualche volta qualcuno magari ancora non se la ricorda questa lezione. Purtroppo, specialmente negli ultimi anni, con tutte le bolle che si vengono a creare a ritmi sempre più intensi, più vicini, spesso si dimentica effettivamente una delle teorie basilari di una gestione di portafoglio. Diversificazione non vuol dire avere dentro tutto di tutto, effettivamente va comunque mirata e sicuramente si dovrebbe evitare di andare a prendere investimenti tipo il greggio l'anno scorso, quando siamo già veramente a livelli stratosferici, piuttosto come adesso potrebbe essere un'occasione di cominciare a riaccumularlo, l'investimento. Rimaniamo più sull'oro, effettivamente, no? Perfetto. Perché poi magari l'oro è, fra tre anni si può dire che è stata un'altra bolla. Mm-hmm. I mercati ormai vanno a cercarsi le bolle, che però si vedono sempre dopo San Damiano. Colpa un po' anche di questi tassi di interesse così bassi che hanno, esatto, già creato la crisi. Adesso siamo nelle stesse condizioni e questa cosa ci preoccupa un poco. Volevo rispondere ad un ascoltatore che non c'entra molto col tema di stamattina, ma per rassicurare. Allora, perché non si parla più dei bond argentini? Vi siete arresi come me, che ho spesso di sperare. Come lei, non so come si chiami perché non si firma, ce lo stanno chiedendo in molti. Allora io la farei anche volentieri in un'altra trasmissione. Purtroppo non abbiamo molto da dire, perché come sapete è stato istruito questo super ricorso a questo tribunale internazionale, alla Banca Mondiale, a Washington, all'ICSID. C'è stato peraltro un recente cambio di presidente insieme a questo tribunale, perché il precedente purtroppo per ragioni di salute ha dovuto rassegnare le dimissioni. Pertanto abbiate pazienza, non appena io avrò segnali concreti sull'esito di questo ricorso dei risparmiatori italiani presso questo tribunale, un'iniziativa della Task Force Argentina, la farò immediatamente. Il problema è che adesso non avremmo molto da dire. C'è questa possibile iniziativa di una nuova proposta di concambio, di offerta dal governo argentino, ma sarebbe, da quello che mi risulta, molto peggiorativa di quella del 2005, per cui anche lì, e siccome è solamente un proclama politico, non abbiamo nessuna concretezza su questo. Io vorrei per voi viaggiare un po' più sul territorio della concretezza, se siete d'accordo, quindi ci ritorneremo senz'altro. Sentiamo intanto Marco da Milano, cosa vuole chiederci, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo fare una considerazione e confrontarmi con i vostri esperti sull'andamento delle borse. Cioè io ritengo che le borse stiano crescendo non soltanto per effetto della grande emissione di liquidità dei governi, ma anche perché le aziende, tra l'altro adesso siamo in procinto delle trimestrali, stanno ristrutturando, quindi stanno annunciando licenziamenti, anche in Italia sentivo l'Alcoa, certo, in Sardegna, la Fiat con Termini Imerese. Sappiamo che questo magari per l'economia non va bene, nel senso che la gente perde il posto di lavoro, però sappiamo che diciamo per i conti aziendali, diciamo, queste ristrutturazioni sono sempre piuttosto salutari, ben viste dal mercato, quindi a mio avviso il mercato continuerà a salire finché non toccheremo i picchi di disoccupazione. Cioè, infatti, paradossalmente, man mano che, cioè, finché la disoccupazione aumenta, e i governi ci dicono che anche nel 2010 addirittura la disoccupazione toccherà il picco, il massimo, quindi a mio avviso paradossalmente potremmo avere dei rialzi finché avremmo delle notizie di forti ristrutturazioni aziendali. Marco, è un'osservazione assolutamente pertinente sulla quale il dottor Werner concorda qui con me in studio, ma tra l'altro è un punto che è stato toccato anche da Sara Silano all'inizio. Sara, mi sembra che non faccia una piega al discorso di Marco, purtroppo l'abbiamo detto più volte, la borsa da questo punto di vista ha un cinismo esemplare, no? Premia effettivamente, certo, il grande movimento di ristrutturazione generale. C'è da dire, la maggior parte delle aziende ha battuto le stime, in particolare negli Stati Uniti, ma proprio perché ha attuato una ristrutturazione, un taglio dei costi. Non c'è stata una svolta così forte dal lato del fatturato, e il problema della disoccupazione è un problema importante, perché comunque sappiamo che negli Stati Uniti ciò che ha trainato la precedente fase di rialzo delle borse, espansione dell'economia, sono stati proprio i consumi degli americani. Oggi questa situazione non è più possibile. L'America non consumerà mai più come prima, anche perché l'America, i bilanci delle famiglie devono ancora essere ristrutturati, quindi prima deve avvenire questa fase di riduzione dell'indebitamento delle famiglie prima che si possa riparlare di consumo. Infatti, non a caso, sì, ecco, negli Stati Uniti è il tasso di risparmio che sta aumentando piuttosto che il tasso dei consumi. No, peraltro, ecco, questa situazione delle famiglie ieri era anche di nuovo analizzato da un articolo del Sole 24 Ore del nostro corrispondente, del corrispondente del Sole Marco Valsania, che spiegava come ancora i valori dei mutui siano estremamente più ampi rispetto al valore delle case che si hanno, pertanto ancora le famiglie sono ampiamente indebitate al di sopra delle loro possibilità e molto al di sopra appunto dei beni reali che poi hanno in possesso. Eccoci ritrovati a Salvadanaio, oggi un po' in giro per il mondo per capire come stanno andando le borse, cosa sta accadendo, e dobbiamo per forza fare un piccolo salto abbastanza lontano, e cioè in Brasile, che peraltro anche per ragioni personali il dottor Werner conosce molto bene, ma in ogni caso ci sono delle quotazioni di borsa che hanno raggiunto, letto proprio un suo rapporto pubblicato pubblicato di recente su fondi online, le quotazioni hanno addirittura raggiunto i massimi pre-crisi. Come mai c'è questa situazione così interessante in questo paese, dottor Werner? Dunque, con il Brasile è un classico esempio dove bisogna andare indietro di qualche anno. Attualmente siamo in una fase di, si può veramente descriverlo praticamente un boom economico, cominciando proprio dall'evoluzione anche dei prezzi immobiliari che stanno mensilmente, stanno veramente... Sì, raddoppiando di mese in mese, proprio dei ritmi vertiginosi. Assolutamente. Comunque bisogna tornare un po' indietro per dire anche che la situazione fino a 6-7 anni fa era anche completamente sottovalutata. Sicuramente che cosa ha dato il booster? Eppure era uno dei paesi del BRIC, no? L'acronimo fondato da Goldman Sachs, che indicava nelle zone del Brasile, della Russia, dell'India e della Cina come quelle a più alto potenziale di crescita. Esatto, adesso stiamo raccogliendo i frutti anche per il fatto che hanno approfittato anche del loro forte deprezzamento della valuta, tornando indietro all'inizio anni dal 2000 fino al 2002, e praticamente qui adesso abbiamo... Si tratta di un paese completo, anche quindi non solo di risorse e materie prime. Quello che si sta verificando adesso, anche sia a livello governativo, politico, viene dato un maggior ordine, c'è una struttura un po' più ben di stabilità più politica con Lula. Esattamente, c'è la stabilità anche sul fronte di nuovi posti di lavoro. E quello che parla ancora anche a favore, diciamo, è la forte parte ancora di risparmi della popolazione, quindi la popolazione sta consumando, sta investendo, sta progredendo, e hanno forti risparmi, anche che pagano ancora un tasso, qualcosa ancora, diciamo, un tasso un po' più ragionevole della maggior parte dei tassi, quasi più a direzione di 2-3% che offrono gli altri paesi. E anche qui si vede anche in futuro questi risparmi, la gente anche sta consumando, ma non è arrivata ancora a questa moda di entrare massicciamente sul mercato azionario, quello che è già presente invece su altri mercati emergenti, un po' più senza, un po' meno, un po' con una visuale un po' meno chiara. E effettivamente si vede anche, è uno dei pochi mercati dove si potrebbe mai dire abbiamo praticamente raggiunto i livelli pre-crisi, considerando anche la valuta, e effettivamente senza che si possa andare a dire che magari ci sia troppo un fattore speculativo. È chiaro, entrare adesso fa male perché è corso giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, senza dare veramente spazio per una piccola correzione, per rientrare a accumulare. Quindi adesso un pochino di attenzione bisognerebbe farla per chi fosse attirato in questo momento da questa zona. Sì e no, e qui vale il discorso, il discorso degli accumuli. Non entrare subito con tutto il proprio patrimonio disponibile. Quello no, perché questo è un classico esempio di comprare per medio-lungo termine. Benissimo. Sì. Sara Silano, volevo toccare con te un altro aspetto, perché so che sei reduce da un'importante iniziativa che si è svolta a Zurigo, la Swiss Investment Conference, organizzata da Morningstar, ma anche da un altro ente, la Fund Academy a Zurigo, no? Se non sbaglio. Che cosa si è detto in quella sede, insomma, a proposito anche della cosiddetta asset allocation, cioè come meglio organizzare un portafoglio di investimento in questo momento? Abbiamo qualche piccola regola da dare anche a investitori di piccolo taglio? Innanzitutto il discorso che è emerso da tutti gli interventi è stato quello che è importante sempre ragionare in termini di portafoglio anziché di singoli strumenti di investimento. Purtroppo l'abbiamo sentito anche stamattina, spesso le domande si concentrano su un asset class che può essere l'oro, che può essere una specifica area geografica. In realtà l'importante è ragionare in termini dell'intero portafoglio. L'altra esortazione forte che è venuta è quella all'educazione finanziaria, quindi a informare, e poi c'è stata una forte critica da parte del premio Nobel per l'economia del 1990, Henry Markowitz, sul discorso dei derivati. Lui ha chiaramente detto non comprare derivati e, se si è onesti, addirittura non venderli, a meno che non si abbia chiaro in mente come funzionano e la relazione con il sottostante. Questo vale particolarmente oggi, in cui molti investitori guardano al mercato delle materie prime, che è un mercato dove si lavora soprattutto con derivati. È importante conoscerli, è importante capire la struttura sottostante. Dottor Werner, abbiamo toccato gli Stati Uniti, abbiamo toccato il Brasile, quindi ancora le aree che possono essere definite emergenti. Le vecchie economie, la old economy, l'Europa le piace in questo momento? E dove investirebbe? In quale economia e in quali settori? Fatto una faccia che è in tutto un programma, no? Diciamo l'Europa, ma il discorso, chiamiamolo effettivamente, di vecchie economie, sono anche le economie che hanno un sottostante, un ciclo sottostante più delicato, assieme agli Stati Uniti. E effettivamente, se fino agli ultimi anni si parlava sempre dei problemi legati all'immobiliare degli Stati Uniti, in Europa, anche e soprattutto per il forte indebitamento sia delle imprese, anche delle famiglie, effettivamente un outlook economico, è difficile dare un outlook economico positivo, o di vedere è difficile vedere anche la classica luce in fondo al tunnel. Comunque si è visto che anche le borse hanno reagito più tardi, hanno cominciato a reagire in maniera un po' più forte solo negli ultimi due mesi. E però insomma dai minimi di marzo fanno anche qua in Europa tra più 50 e più 80% del FTSE MIB a Piazza Affari, perché qua vabbè abbiamo le banche che spingono tanto, però i listini mediamente il 50-60% lo hanno ripreso da marzo. Dai minimi, ok, sì. Io starei un po' cauto sempre solo paragonare dai minimi, perché dobbiamo anche pensare che quando eravamo ai minimi eravamo veramente in basso, stavamo scavando praticamente la fossa della borsa. Era la fine del mondo di nuovo, no? Le banche dovevano saltare, tutto il sistema doveva saltare praticamente. Chi già intravedeva guerre civili e chi più ne aveva. Effettivamente io magari mi rimetterei più a vedere anche le performance da inizio anno, quindi senza vedere effettivamente i minimi, altrimenti viene esattamente di paragonare quello che è successo dal 2003 poi fino al 2007. Noi stiamo chiudendo, dottor Werner, mi interesserebbe capire se c'è qualche settore sul quale lei punterebbe un po' di più rispetto ad altri in questo momento, visto abbiamo parlato tanto delle materie prime, ma altri, per esempio il settore bancario, il settore automobilistico piuttosto che l'energetico, dove andrebbe adesso? Energetico e finanziario in generale potrebbero essere ancora favoriti. Sul finanziario è più che andare a individuare magari un investimento su un titolo singolo, magari prendere più un gestore abbastanza diversificato, perché qui dipende veramente da banca in banca e comunque il settore intero potrebbe ancora riservarci ancora delle, nonostante è chiaro, sarà un investimento più legato a un certo rischio anche, quindi qualcuno che vuole dormire tranquillo magari non dovrebbe proprio affacciarsi a questo tipo di investimento. È un settore molto ristrutturato, in corso di ristrutturazione, come diceva prima l'ascoltatore. Molto incerto, ancora molto incerto, molto vulnerabile, però potrebbe avere ancora dei forti spazi, ancora reali. La ringrazio molto per essere stato con noi, torni a trovarci presto. Ben grazie a Dingo voi. Werner, Farad Investment Advisor, grazie a Sara Silano. Sara, presto, buon lavoro naturalmente, buon lavoro a tutti gli amici di Morningstar. Io ringrazio, perché non lo faccio mai oggi, ho tempo, due secondi, Gaia Romani, Alessandro Longoni per aiutarmi sempre in redazione. Noi torniamo domani e parliamo di un bellissimo tema, la revisione della caldaia. Ci siamo, abbiamo qualche indicazione più precisa domani. Salva Danaio.